spiaggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Vorrei iniziare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con una frase. Sono circondato da gente senza cuore. Vi pare che un ragazzino di 16 anni possa dire queste parole? Eppure è veramente una realtà concreta e io direi sconvolgente, perché è un... Adesso io non sto per fare, diciamo, dello stucchevole qualunquismo, no? Però, o del moralismo così facile, però è vero che quello che manca di più non sono i soldi, il deficit, per carità, anche questo, però è veramente il sentimento, il cuore, la comprensione, l'empatia. Questo si vede nella situazione, nella vicenda tristissima di questo ragazzino di 16 anni che questa settimana si è buttato giù dalla finestra della sua scuola perché gay e perché veniva preso in giro, e anche soprattutto in famiglia c'era un padre che dice lo picchiava e lo costringeva ad andare con le ragazze, che è una cosa veramente aberrante questa, no? E quindi questo fatto, ma anche il costante, abbiamo fatto anche uno speciale, no? Abbiamo dedicato diverse cose, ne parlo ogni volta e non ci sono più le mezze stagioni, anche il costante femminicidio, questa strage di donne costante che continua. Anche questa settimana c'erano stati i funerali di Fabiana, la ragazzina di 16 anni uccisa, prima accoltellata, poi bruciata viva dal suo fidanzatino di 17 anni. Questo ci dice che ancora non possiamo purtroppo avere speranza nelle giovani generazioni, perché è molto trasversale. Ci sono i 92enni, ieri ho letto un 92enne che picchiava tremendamente la moglie di 83 anni, e c'è il 17enne. È una cultura questa che va cambiata. Al di là della convenzione di Istanbul che è stata firmata in questi giorni dalla Camera italiana, tra l'altro piccolo particolare, l'hanno firmata all'unanimità, ma il giorno prima, quando c'è stata la discussione, c'era un drappello di poche donne e qualcuno del Movimento 5 Stelle, per dire quanto la questione dei diritti civili, della pari dignità, delle cose importanti perché questo paese cresca culturalmente e civilmente, non hanno nessuna importanza per la classe politica, e poi dopo di rimando anche evidentemente per la società. E questo ci dice anche perché c'è una certa astensione, ci siamo un po' stufati, possiamo dire, in generale. Adesso vi potrei fare l'elenco dei femminicidi, delle violenze anche questa settimana, lascerei perdere, però vi dico che continuano a esserci. E questa convenzione, la ratifica è stata importante perché dobbiamo aderire a questi trattati internazionali che ovviamente ci impongono anche poi di prendere delle misure. L'importante è non pensare che così ci sia lavati la coscienza, soprattutto lì in Parlamento, ricordatevelo. 800 24 00 24, come sapete questo è il mio appuntamento con voi e con l'opinionista estemporaneo che ci sarà oggi, per commentare insieme i tanti fatti della settimana. Numero verde, quindi, numero gratuito, ma come sempre vi dico anche ecologico, perché vi evita di disperdere nell'ambiente i vostri pensieri, le vostre energie, il vostro tempo, le vostre capacità. Quindi convogliateli qui, non ci sono più le mezze stagioni, di modo che io adesso vi possa fare un piccolo elenco di alcune delle notizie di questa settimana, poi scegliete voi su quale vi volete soffermare. Allora, vogliamo iniziare con una bella notizia? Iniziamo. L'Italia è uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, così ci ha assicurato la Commissione europea. E Letta, dice il Presidente del Consiglio, merito di tutti gli italiani, anche dei governi precedenti. Prima, i governi precedenti è un disastro. Comunque, insomma, prendiamola così come pacificazione. E poi uno dice, bah, meno male, una buona notizia. Che cosa succede però? L'Istat ci dice questa settimana che la disoccupazione è ai massimi dal 77. Qualcuno si ricorda il 77? Sembra lontanissimo. E tra i giovani attivi, i senza lavoro sono il 40% in Italia. Poi lo studio della CGIL, come se non bastasse, dice: per tornare al PIL del 2007 ci vogliono 13 anni, per tornare all'occupazione pre-crisi ci vogliono 63 anni. 63 anni. E poi la relazione anche del governatore della Banca d'Italia, che dice: il nostro paese è in ritardo di 25 anni, la coesione sociale è a rischio, serve coraggio per le riforme, dice. Le riforme, allora, per quelle costituzionali, dice Letta, ci vogliono 18 mesi. Ha detto che ci vogliono 18 mesi. La riforma della legge elettorale pare non pervenuta al momento, si parla adesso di questa graduale abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, ma in 3 anni. Staremo a vedere. Qualcuno, Grillo, parla già di legge truffa, poi capiremo. Poi le elezioni amministrative, naturalmente, con il risultato possiamo anche dire a sorpresa, parleremo anche di questo. vi dicevo della ratifica della Convenzione di Istanbul, il processo a Milano Ruby con l'arringa del PM che ha chiesto 7 anni per Minetti, fede mora, dice erano feste di sesso a pagamento e c'erano assaggiatori di vini che dovevano essere l'elemora e Emilio Fede secondo il PM. Poi in Francia ci sono state le prime nozze gay, primi due uomini che si sono sposati con tanto clamore e felicità da una parte, le proteste dall'altra, e nel frattempo anche la Scozia va verso la legge per le nozze gay. Rimaniamo proprio gli ultimi, forse dopo Malta. E poi abbiamo detto ragazzini di 16 anni, la morte di Little Tony e la scomparsa anche di Frank Rame. Mi sembra di aver raccontato parecchie cose e vi direi anche perché pure questa settimana ci possiamo tranquillamente confermare che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Mentre l'Europa è al freddo, e lo constatiamo diciamo quotidianamente, perché non ci sono più le mezze stagioni, vale sempre, sapete che in Lapponia ci sono 30 gradi. Cioè, mentre noi ancora non possiamo fare il cambio di stagione, mentre qualcuno l'ha già fatto, pochi si sono amaramente pentiti, in Lapponia ci sono le renne che si sventolano, sono lì che boccheggiano, insomma, tutto il mondo un po' all'incontrario. Ma è tempo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Caro Massimo Fini. Buongiorno. Tutto qua? Che vuoi che dica? Che ne so, volevo una cosa un po' scoppiettante. Ah, Roberta, finalmente, eccoci. Vabbè, Massimo è tipo flemmatico, ma ti dico subito, guarda, per, diciamo così, per vivacizzare il tutto, che un ascoltatore sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni scrive, Domenico, non so mai se posso dire anche i cognomi degli ascoltatori e ascoltatrici che scrivono sulla pagina, però così per riservatezza non dico, ma scrive, appena saputo che c'eri tu, Indro Montanelli un giorno disse che l'unico giornalista del quale aveva una stima intellettuale era Massimo Fini. Condivido anche questa del toscanaccio, dice Domenico. Ti capì? Te l'aveva detto Montanelli o l'aveva detto così al vento, senza fartelo sapere? Ma non mi ricordo, l'aveva detto qualcuno, non lo so. Beh, non mi ricordo, insomma, quando Montanelli ti dice una cosa del genere. Comunque è modesto, Massimo Fini. E allora ti voglio chiedere, caro Massimo, ma Dio è comunista e femmina? Beh, ha detto uno scrittore francese, l'unica scusante di Dio è che non esiste. E un altro, credo sia Baudelaire, un altro di cui non mi ricordo il nome, dice se c'è si è nascosto molto bene, per cui chissà se si è nascosta o se è nascosto. Comunque era una frase di Jacopo Fo, questo al funerale di sua madre. Sì, certo, non era sua, perché certo. Che Dio è donna lo dicono molti, diciamo. Potrei pensarlo anch'io, o forse pensare che si è nascosto molto bene, sono incerta, adesso ci rifletto. Ma perché però non capisco perché debba avere Dio, se mai esistesse non capisco perché debba avere un sesso. Ma veramente finora mi sembra che abbia avuto un sesso maschile, no? Ma dipende dalle religioni, da noi ha un sesso maschile. Dici poco. In altre religioni non ha sesso. In alcuni posti... Sei sicuro, sicuro che non abbia sesso in altre religioni? Beh, sì. Comunque, per esempio, nei popoli africani dell'Africa centrale subsahariana, Dio è in realtà la magia della natura. Perché, qualcosa di animistico, un po', no? Sparso un po' dappertutto. È una cosa positiva. Sì, molto positiva, però noi naturalmente quelle culture le abbiamo distrutte perché abbiamo introdotto la nostra ideologia, la nostra economia, i nostri modi di essere, e quindi adesso abbiamo distrutto tutto il Centro Africa, che si è diviso fra musulmani e cristiani e poi e succedono le cose che succedono. E qui viene la passione, viene fuori la passione geopolitica di Massimo Fini. Massimo, ma a proposito di distruzione, no? Riferendomi al risultato di queste elezioni amministrative, in cui, un po' sorpresa possiamo dirlo, allora il PD, che sembrava in crisi nera, è cresciuto e ha vinto dappertutto, adesso ci sono i ballottaggi, per carità, anche a Roma. Il PDL e la Lega, il PDL che Lega è crollata, il PDL che dava, i sondaggi davano molto in crescita, ha avuto un certo crollo anche lui, il Movimento 5 Stelle è proprio un tracollo. Ecco, proprio di distruzione, dicevo, è possibile che il Movimento 5 Stelle con Grillo abbia un pochino distrutto quel patrimonio, quel tesoretto che aveva a disposizione con il successo che aveva avuto alle elezioni politiche? Ma non lo so, i partiti hanno tutti gioito al cosiddetto tonfo di Grillo e 5 Stelle, senza rendersi conto che contemporaneamente è avanzata una astensione impressionante, che è molto più insidiosa per il sistema dei partiti di Grillo, perché Grillo in qualche modo canalizza, istituzionalizza, innocuizza diciamo la rabbia popolare, mentre l'astensione non ha volto, non è individuabile e potrebbe anche esplodere in qualsiasi momento in forme di violenza. Insomma, questo è una prospettiva molto funesta. Vi ricordo naturalmente che Massimo Fini è scrittore e giornalista del Fatto Quotidiano, ma io non solo. Anche della Gazzettino in Venezia, che è un giornale di centrodestra, mentre quegli altri sono delle suorine di sinistra, quindi sono due mondi diversi. Ma scrivi tu per le suorine di sinistra, però perché scrivi per le suorine di sinistra? Scrivo per le suorine di sinistra perché dai ridai mi hanno messo nell'angolo e quindi scrivo dove posso. Ah, ma una buona spiegazione, ma a Padellaro e a Travaglio piace questa tua spiegazione, che sono direttore del Foglio Quotidiano, del Fatto Quotidiano e vice direttore? Non lo so, con Padellaro parliamo solo di calcio e Marco, che io stimo molto, se il primo libro suo importante c'è la mia prefazione, però mi sembra che abbia virato troppo su un solo unico argomento e alla fine diventa noioso, anche se scrive in modo brillante, lo sappiamo, eccetera eccetera, ma come mi disse Bocca una volta, poco prima di schiattare, dice: non si può scrivere un pezzo al giorno, non è professionale. Io sono d'accordo. E allora Roberto dice, a proposito di quello che è successo a Grillo in particolare: succede che a livello locale valgono, per fortuna, dico io, dice lui, le qualità, la credibilità e il radicamento dei candidati più che il mero traino sulle questioni nazionali. Questa è la versione di Roberto. Massimo invece dice: semplice il fatto che sia crollato il Movimento 5 Stelle e sia salito il PD. A livello locale emerge il voto utile, o meglio clientelare, motivo per il quale il Movimento 5 Stelle, non avendo nulla da poter offrire, essendo fuori dal potere, risulta poco appetibile. Quindi danno due interpretazioni contrastanti. Uno dice: quando c'è radicamento territoriale, persone credibili sul posto, sul territorio, ecco perché può ancora vincere il PD, mentre l'altro dice: a livello territoriale è politica clientelare. Tu con chi sei d'accordo, Massimo? Ma anche se può sembrare strano... Tutte e due? Dunque, innanzitutto è vero che a livello locale, soprattutto nei piccoli comuni, il voto ha un senso perché tu conosci, puoi conoscere il candidato. Poi quando diventa sindaco, se non dice, fa quello che ha detto, poi o mandi a casa. Lo conosci, lo fermi al bar e gli dici cose. Quindi, ma proprio per questo, proprio perché nelle amministrative c'è un contatto più diretto con l'elettore, il fatto che l'astensione abbia raggiunto un livello quasi del 50% è un fenomeno che dovrebbe far riflettere, come si dice, i partiti. E l'altra cosa, sì, gli apparati dei partiti ovviamente dominano finché esistono e finché ci sono. Il tentativo di Grillo è proprio quello di abbattere gli apparati e poi anche i partiti. Però sempre dal giornale delle suorine di sinistra, adesso è rimasta questa simpatica questa espressione, Flores Darcais, che scrive spesso, no, il direttore di Micromedia, oddio, il cupo Flores Darcais, ci tocchiamo, no. E allora lui, che comunque mi sembra che un po' dall'inizio abbia sempre sostenuto il Movimento 5 Stelle, scriveva ieri, se non sbaglio, il Movimento 5 Stelle perde perché non ha agito e così rischia l'autismo. Dice che è molto preoccupato di questo forte calo dei consensi, ma la fuga degli elettori del Movimento 5 Stelle, dice sempre Flores Darcais, dipende dal fatto che le speranze che i cittadini ripongono in una forza politica vanno alimentate con l'azione e il Movimento 5 Stelle, entrato in forza in Parlamento, non ha agito. Ma non è vero, il problema è un problema di comunicazione, loro comunicano male, per la verità, non a caso adesso vanno da Casaleggio per fare lezioni di comunicazione. Loro comunicano male, ma anche quel poco che comunicano non viene mai ripreso dai giornali. Ci sono, mi pare, 17 mozioni presentate da 5 Stelle, una delle quali è il ritiro immediato di queste delle forze italiane che sono in cosiddette missioni di pace, che stanno facendo invece la guerra contro l'articolo 11 della Costituzione, per dire una delle iniziative. Ne hai mai sentito parlare? No. No, anche se ti devo dire che un po' sono stati anche, con i meriti che io riconosco, come anche scrivono alcuni ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, che dicono ci sarebbe stato questa azione, che poi vediamo se è effettiva, sul finanziamento ai partiti, un certo scrollarsi, cercare di scrollarsi di dosso questa fama della casa se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, e siamo d'accordo, però sui giornalisti e sul comparire sui media, in televisione, sono sempre stati loro che, diciamo, sono stati piuttosto, no, sfuggenti, per non dire anche un po' hanno assolutamente ragione, perché loro considerano la classe giornalistica nel suo complesso assolutamente complice del sistema dei partiti che vogliono abbattere, quindi la cosa è assolutamente coerente. Però devono diventa un cane che si morde la coda. Sì, poi. Ma devono trovare forme di comunicazione che non siano solo quelle del web, e questo è una cosa che dovranno fare, non so in che modo, ma si devono inventare un canale, qualcosa. Su questo piano sono stati effettivamente deboli, ma non andare in televisione, talk show tipi come Vespa o come Santoro o come quasi tutti, tutti, secondo me è una scelta giustissima. Lì ci vadano i rappresentanti dei vecchi partiti a scodinzolare e i giornalisti a scodinzolare di fronte a questi. Senti, cominciamo ad ascoltare le voci delle ascoltatrici e degli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Per esempio Paola da Roma, eccoci Paola. Pronto? Sì. Buongiorno, grazie per avermi accettata. Ma ci mancherebbe, Paola. Allora, io sono una seguace di Radio 24, ascolto sempre tutte le vostre trasmissioni. Seguace, e mi complimento con voi. Grazie. Ecco, sono molto contenta che ci sia questo giornalista allievo di Montanelli, che io ho seguito tutta la vita e sono stata una delle socie sostenitrici del giornale. Ma tu hai seguito tutta la vita Massimo Fini, il giornale Montanelli o chi, Paola? No, Montanelli. Montanelli. Ecco. Sì. Sono indignata per la sepoltura della Santa Franca Rame nel Famedio di Milano. È una cosa vergognosa. Le Brigate Rosse quanto hanno fatto, quanto hanno soffiato sul fuoco, tutte le persone che sono morte negli anni di piombo. Si aveva paura a comprare il giornale perché c'era il rischio di essere gambizzati. Ma e cosa, Paola, cosa c'entra perché in questo Franca Rame? Perché Dario Fo erano due fomentatori. C'è poco da fare. Erano di quella borghesia illuminata o per qualcun altro, magari radical chic degli anni 60, che comunque ha detto anche delle cose giuste, oppure no, ma era di sinistra e non mi sembra che abbiano però fomentato le Brigate Rosse. Paola, mi sembra un po' esagerato questo, erano di sinistra. No? I vari Ambrosoli, Tobagi, eccetera, sono tutti vittime di quegli anni lì. E senz'altro, loro, ma non credo vittime di Franca Rame e di Dario Fo. Nessuno metteva il biglietto da visita loro, però erano le mosche nocchiere di tutte quelle teste lì bacate. E messa al Famedio, dove c'è Mangioni, non mi sembra proprio il posto giusto. Paola, per carità, questa è la tua legittima considerazione e opinione. Io non sono d'accordo. Per chi non sapesse, il Famedio del Monumentale a Milano, appunto, è il luogo dove ci sono personaggi che hanno fatto grande Milano e non solo. Tu, grazie Paola. Massimo, che ne pensi di questa indignazione di Paola? Ma Fo e Rame sono stati certamente tutta la vita della gente di sinistra, ma questa storia dei cattivi maestri è una storia inaccettabile, nel senso che allora uno non può più dire niente, perché poi allora gli viene addebitato, addirittura come fa l'ascoltatrice, tutto il fenomeno delle Brigate Rosse. Mi pare un po' eccessivo. Che risale a qualcosa di ben più grave, se vuoi risale, se si vuole risale anche alla resistenza e alla retorica sulla resistenza, ma diciamo delle degenerazioni poi a lungo termine. Poi quanto alla storia del Famedio, a me non mi frega niente dove vengano sepolte le persone, per cui quindi lasciamola riposare in pace, diciamo. Per carità, non è che poi quando qualcuno muore bisogna parlarne per forza bene, accusa di Paola mi sembrava un po' eccessiva. Sul piano personale non era una persona molto, mentre lui è simpatico, affettivo, casinista, confusionario, ma anche corro, la Rame era una persona molto più, non ricordo quando frequentavo eccetera, quando entrava la Rame si creava un gelo. Negli ultimi anni si era ammorbidita, era diventata più simpatica, ma questo ripeto non lo so. Sì, sono questioni personali, un po' simpatico, antipatico, eccetera. Giuseppe da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno Giuseppe. Io sono un vostro ascoltatore da tantissimi anni, sia qui a Milano che a Ragusa, Vittoria esattamente. Senti Giuseppe, ma voi vi siete candidati, Paola, Giuseppe, al premio Fedeltà Radio 24 per caso? Diciamo che lo meritate, quindi questo lo diciamo. Andiamo al mio intervento. A proposito, sì. Lei parlava di ragazzi che fanno delle scemate e si buttano giù dal balcone. Ma scemate, diciamo, lì è un po' disperazione. Sì. Diciamo sì, nel senso che se loro parlassero prima con delle persone adulte, principalmente con i loro genitori, o ancora persone nell'ambito scolastico, i loro docenti, credo che queste cose non succederebbero all'ordine del giorno. Io sono un docente, insegno a Comiso in un'istruzione secondaria, sì, e sono adesso qua perché a scuola per me è finita, inizio un'attività insomma lavorativa stagionale. A questo proposito, Giuseppe, visto che sei un docente e visto che mi hai detto queste cose, che un ragazzo si sente in difficoltà dovrebbe rivolgersi agli adulti, che spesso, voglio dire, sono abbastanza inadeguati, ma se lo avesse detto a te, avesse detto: professore, io sono gay, sono in difficoltà perché a casa mio padre non mi vuole, i compagni mi scherniscono, cosa gli avresti detto? Allora, premetto che a scuola ne abbiamo parlato già con dei ragazzi. Bisogna principalmente capire che è una situazione psicologica, un problema psicologico importante per chi lo vive, per il rapporto sociale che può avere con le persone, i professori e altri compagni. Giuseppe, scusa, una premessa, ascoltami, Giuseppe, scusami, il problema psicologico è essere gay o che gli altri non ti accettano? Qual è esattamente? Che gli altri non accettano, ecco. E per l'altro invece non è un problema, è la natura che certo, è quella. Ognuno è come gli pare. Noi dobbiamo partire dal fatto che molte volte dietro un aspetto esteriore di uomo c'è una donna e viceversa. Non necessariamente, uno può essere anche gay e essere maschile nel suo modo di essere, una donna lesbica e essere molto femminile. D'accordo, siamo troppo sugli stereotipi. Però il fatto che poi non venga accettato dalla società è il problema, che chi lo vive lo vive in grande scala. Quindi a volte non trova una soluzione se non quella di rompere questo rapporto con la società, e quale può essere? Quella del suicidio. Quindi il parlare con un adulto, con un professore o con un genitore, perché no, io penso che dei genitori aperti oggi ci siano. Sì, senz'altro, non tutti ma molti. Sicuramente attenua la cosa. Io ho due casi che ho conosciuto nelle conoscenze così un po' fuori dalla famiglia, ma nell'ambito delle amicizie, in cui i genitori a fatica hanno accettato. Beh. E per esempio uno di questi, adesso so che abita nella zona del Milanese, è andato presso parenti, i genitori hanno capito però. Bene, sono contenta. Giuseppe, sono contenta anche di quello che hai detto del tuo intervento. Continua così allora con i tuoi studenti. E rivolgendomi io a Massimo Fini, Massimo, volevo chiederti cosa ne pensi di tutto ciò. E io lancio anche una proposta però a questo punto, no? Se i diritti non devono essere uguali per tutti, non lo devono essere neanche i doveri. E quindi propongo che i gay in Italia non paghino le tasse. Io scommetto che tutti si riveleranno gay nel nostro paese, però io lancio questa proposta, che i gay non paghino le tasse, così visto che non ci sono uguali diritti non ci siano neanche uguali doveri. Comunque, che ne pensi tu dell'ascoltatore Giuseppe? Ma io noto un cambiamento molto forte fra diciamo i ragazzi della mia generazione, parliamo di ragazzini che avevano appunto 15, 16, 17 anni negli anni 50, alla fine dei 50, quelli di oggi. Per noi esisteva un codice d'onore per cui non si inferisce sul più debole, casomai lo si difende. Ah sì? Sì, assolutamente. Ma questo valeva anche, diciamo, nelle baruffe di strada che facevamo praticamente ogni giorno. Però forse era un po' più il tuo gruppo, che non tutti in generale. Forse ma prima si era più oscurantisti. Per esempio non esisteva che se il tuo nemico cadeva per terra, una volta che cadeva per terra non lo si toccava più. Vedo che adesso li massacrano. In ogni caso, in quanto al problema gay, certo, questa è una questione culturale, è pazzesco che, insomma, il principio di fondo è che ognuno ha diritto di essere ciò che vuole nella misura in cui non muoce agli altri, e questo è un problema culturale molto grosso, perché non è stato risolto, e però, se vogliamo, si estende. Se vogliamo, come si diceva una volta, allargare il discorso, noi non accettiamo, noi diciamo Occidente, non accettiamo l'altro da sé, il diverso, il talebano, il coso, eccetera, lo bombardiamo perché non ha la nostra cultura. Le cose si legano anche se un po' alla lontana. Non sono molto d'accordo, perché quando si dice rispettiamo la cultura altra, per esempio dei paesi integralisti, fondamentalisti, di solito sono le donne che ci rimettono sempre gli uomini che hanno la loro cultura, quindi non è la cultura di quel paese, è la cultura di chi domina su una metà della popolazione. Io non sono molto d'accordo, però sentirei Margherita e poi abbiamo il collegamento con Marte. Margherita, dalla provincia di Catania. Sì. Buongiorno, sono Margherita da Catania. Sì, innanzitutto la ringrazio per lo spazio che mi dà. E poi volevo dire che è da parecchio tempo, insomma, tutta questa situazione italiana che c'è, però io non sento nessun giornalista, va bene, che parla di questi veri problemi dell'Italia. Cioè, gente che muore, gente, donne che uccidono, ma non vedo nessun giornalista che veramente dice sente? Sì, c'è una voce che va e viene, ma nessun giornalista che veramente dice abbiamo aperto questo cantiere in questa città, nessuno. Vedo tutte queste belle tavole rotonde, tutti questi giornalisti che parlano, ma nessuno che veramente si sta interessando dei problemi dell'Italia. Margherita, ma sono i giornalisti che devono aprire i cantieri, i giornalisti danno l'informazione? No, i politici, mi scusi, forse mi sono espressa male, l'unico programma che veramente è interessante. E non ci sono più le mezze stagioni. Brava Margherita. E che io ascolto con immenso piacere. Quando non riesco ad ascoltarlo alle 2, mi ascolto la replica la sera. È veramente uno dei. Il Radio 24. Lei è Radio 24. Tutti i suoi colleghi. Grazie. Ma veramente io non sento nessun politico che va in queste bellissime trasmissioni che dice c'è questa iniziativa per i giovani, per i ragazzi. Andare sulla concretezza, vuoi dire, hai ragione. Margherita. Tutto questo, donne che uccidono, donne che vengono uccise, ma che cosa si sta facendo? facendo per tutelare noi donne? Che cosa si sta facendo? Vediamo dopo. Anche... Sì, hai ragione. Dopo la convenzione di Istanbul, vediamo se restano sempre le parole e quell'immagine squallidissima del Parlamento il giorno prima della ratifica della convenzione, quando c'è stata la discussione di questa convenzione, vuoto. Vediamo, cara Margherita, come si procede. Tu segui sempre, non ci sono più le mezze stagioni, sappi che il piacere immenso è reciproco. Grazie molto e auguroni alla sua trasmissione. Grazie. E saluto caramente il giornalista che è con lei, che quando è in televisione lo ammiro veramente. Grazie Margherita. Grazie ancora per lo spazio. Grazie Margherita. Arrivederci e buon lavoro, grazie. Buon lavoro, invece andiamo a vedere cosa succede su Marte. Riflessioni da Marte. È sempre pieno di sorprendenti spunti il pianeta italico visto da quassù, da Marte. Col Fido telescopio, il mio solito telescopio sgarrupato, non quello che si chiama ARCHID, e che per costruirlo e lanciarlo in orbita nel 2015 occorre raccogliere con piccole donazioni, così è stato detto, la somma di $1 milione entro il prossimo 30 giugno. Cioè neanche un mese, ecco, se mai vi avanzasse qualche soldo, magari esentasse, cioè, vedete voi. Dicevo comunque, no, è il mio usuale telescopio sbrindellato, col quale però ho veduto cose in questi giorni che mi hanno fatto sbocciare punti interrogativi sulle antennine. Per esempio, perché per fare le riforme istituzionali, strutturali, costituzionali ci vogliono, come dice il Presidente del Consiglio, proprio 18 mesi? Servono cioè praticamente due gravidanze? E perché un tesoriere di partito avverte che se si taglia il finanziamento pubblico ai partiti, i primi a perdere il posto o andare in cassa integrazione saranno i dipendenti? Ma nell'eventualità che non ci fosse più il tesoretto, cioè il finanziamento, non dovrebbe forse essere colui che lo gestisce, ovvero il tesoriere, il primo a non essere più necessario? E perché il capo del movimento con le stelle, che non vuole diventare partito da grande, prima dice che Rodotà è un grande, il più grande, poi invece dice che è troppo grande, ovvero un ottuagenario decongelato. E perché il cardinal capo dei cardinali dice che il matrimonio gay è un vulnus alla famiglia, come se le coppie dello stesso sesso, unendosi tra loro, lanciassero bombe a mano e tricche tracche sulle coppie etero o si frapponessero tra donne e uomini come incudini per impedire loro di convolare a giuste nozze, che poi le nozze, se sono davvero desiderate, sono sempre giuste, insomma. Non si chiede il cardinale dei cardinali se non sia piuttosto la politica il vero vulnus delle famiglie, che da anni fa promesse ma nulla mantiene, anzi le affossa mollandole tra mille difficoltà. E quando una donna rimane incinta, molto spesso perde il lavoro, se ce l'ha, o alla meno peggio al ritorno la demansionano. Se lo chiede? A proposito di lavoro, ora è finalmente chiaro che uno dei lavori più sconsigliabili per i propri figli, quando mai riusciranno ad avere un lavoro, è quello del gioielliere. Ebbene sì, lo dimostrano platealmente i dati sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno scorso forniti dal Ministero dell'Economia. I poveri gioiellieri, insieme a autosaloni, alberghi, bar, istituti di bellezza, in un anno portano a casa, pensate, meno di 18.000 euro, quasi sulla soglia della povertà, insomma. Mentre i lavoratori dipendenti, loro sì, che guadagnano, dichiarano all'anno ben 20.000 euro e 20 centesimi. Che il servo stia assai meglio del padrone, che le persone anziane stian benone, che i giovani abbiano sempre un'occasione. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Torniamo con i piedi per terra. Ti dicevo, Massimo Fini, prima di sentire le moltissime telefonate ancora stanno arrivando al numero verde 800 24 00 24, un'agenzia di poco fa, la dichiarazione di Emma Bonino sul finanziamento pubblico ai partiti, c'è stato l'inizio, dice, di un processo compromissorio, ma non sono così fiduciosa che l'arrivo del disegno di legge in Parlamento migliori o chiarisca la situazione. Per questo credo che i radicali potrebbero lanciarsi in una nuova campagna referendaria per abrogarlo. Che pensi? Ma nonostante detesti Emma Bonino, ne penso bene, nel senso che questa dilazione di 3 anni, in 3 anni può succedere di tutto. In questa ragione. Siamo una vocazione, guarda, dei politici, ma vediamo, sono cose che riguardano loro, vediamo più in là. Adesso... Esattamente, ecco, poi sì. Quando c'è da fare qualcosa che gli interessa sul serio, ecco. La fanno in un quarto di minuto. Volevo però parlare. C'era qualcuno che aveva detto di Grillo, il grosso errore di Grillo è stato di puntare tutto su una vecchia sola radical chic di sinistra come Rodotà, che è stato ben incistato nel sistema sia nella prima che nella seconda repubblica. Quindi l'errore è nato prima, poi adesso che lo sconfessa è un po' un'incongruenza. No? È chiaro che un divagare in questo modo non fa bene al Movimento 5 Stelle. Stare prima su posizioni, poi altre. Insomma, avevano una possibilità assoluta senza compromettersi. Prodi era uno dei 10 preferiti dai militanti 5 Stelle. Quindi avrebbero dovuto votarlo, secondo te? Avrebbero dovuto andare subito da come si chiama? Bersani. E proporre Prodi, lui non avrebbe potuto dire di no perché era anche nella sua lista, eccetera. Quindi hanno le loro colpe, diciamo, hanno i loro meriti, il Movimento 5 Stelle, voglio dire, se tu stai in un sistema democratico, pseudo-democratico, ne accetti le regole, diciamo. Non vuoi rovesciare il tavolo con la violenza, cosa che non è un movimento pacifico, quello di Grillo, allora un po' di grammatica e di sintassi politica la devi imparare, se no questi qui ti giocheranno sempre, perché giocano questo gioco sporco da 30 anni. Sentiamo Luigi all'800 24 00 24, centralino che impazzisce con Rosa di là. Luigi? Da Imperia, sì. Volevo dire, scusate se insisto sempre, un tasto, cioè tutti se la prendono sul calo dei voti di Grillo, in particolare adesso, ma potrebbe essere qualsiasi partito. Va bene che le amministrative sono sempre diverse, ma io continuo a insistere sul fatto che qua ci basiamo su un popolo che è cosciente di quello che fa, mentre il popolo è quello che disse Guicciardini, che disse un popolo, chi disse popolo, siamo nella prima metà del Cinquecento, disse veramente un animale pazzo, pieno di mille errori, senza coerenza, senza capacità di scelta, eccetera, eccetera. Cioè è rimasto, andate a fare un sondaggio, un laureato, anche un diplomato di una scuola superiore e provate a vedere che cultura hanno queste persone. Immaginatevi voi, questo non è il popolo, è quello che Polibio, Aristotele, Cicerone chiamavano oclos, da cui oclocrazia, non democrazia. Ho capito, Luigi, poca stima, tu dici il popolo. Nessuno bue praticamente. Di questi, Platone, Aristotele, hanno mai esaltato dalla democrazia, nessuno, e questa è una favola, perché la democrazia è la più facilmente deteriorabile. Che metteresti tu al posto della democrazia, Luigi, scusami? Purtroppo mi fa del discorso di Churchill, che dice potrebbe essere un'utopia. Loro pensavano a una specie di aristocrazia illuminata, addirittura un dispotismo illuminato. Non mi pare che ci sia in Gran Bretagna questo dispotismo, comunque, Luigi. Un momento. Prego. È certo che la parola fa paura, ma d'altra parte non è neanche vero che le democrazie funzionano. Essere vero, Luigi, può essere vero, possono essere perfettibili, però funzionerebbero, scusi, sì, se come ho detto altre volte la scuola educasse le nuove generazioni, cioè aspettiamo 10, 20 anni, 30, veramente alla filosofia morale, almeno fino a Aristotele. Certo, Luigi, ti ringrazio e ti saluto e ti dico anche, insomma, che prima di tutto appunto l'educazione, direi, per le cose che già premettevo all'inizio, già a scuola, possibilmente in famiglia, ma poi a scuola anche della reciproca dignità, del pari rispetto tra bambine e bambini, poi tra ragazzi e ragazze quando diventano più grandi, insomma lì mettere i semi per una già un popolo più civile, più progredito, poi dopo viene tutto il resto. Abbiamo la viabilità, ma vorrei sentire Donatella della provincia di Firenze. Sì, buongiorno. Buongiorno Donatella. Volevo dire, riallacciarmi al primo discorso, quando Montanelli ha detto di Fini che... Quindi è l'unico intellettuale... dalla parte opposta. Tu sei dalla parte opposta? Purtroppo, sì. Siamo stati abituati, come il popolo bove diceva prima, l'altro ascoltatore, a fissarci sulla destra e la sinistra, quando invece c'è un problema di informazione, anche a livello planetario, cioè globale, però in Italia veramente si casca nel provincialismo, si parla spesso del dito e mai della luna, mai. Sul sì. Movimento 5 Stelle si parla degli scontrini e mai di quello che fanno, si parla sempre, ma questo in tutti gli ambiti. E quando giornalisti come Cruciani in quella inascoltabile trasmissione dice che lui è libero e non risponde a nessuno, lui è convinto probabilmente di questa cosa, ma chi dice questo? O è molto ingenuo oppure è parte del gioco, perché non è possibile, perché quando Fini dice io sono stato messo nell'angolo, è così, esiste un'autocensura in ogni persona che fa informazione, che non gli viene nemmeno in mente di dire certe cose, perché sa benissimo che se lo facesse sarebbe fuori dal gioco. Quindi Fini rimane l'unico, quasi l'unico in Italia che fa parte del mainstream a dire certe cose, gli altri sono tutti relegati in internet. Massimo Fini, rispetto a quello che diceva Donatella, sei d'accordo? Ti senti un po' il pur essendo modello io eroico? Non posso non essere d'accordo con Donatella, che mi fa queste, un elogio, diciamo, abbastanza considerevole. Sicuramente ci saranno altri, è vero, io penso soprattutto ai giovani giornalisti, è vero che se tu non pieghi la schiena finisci emargino, finisci fuori, per cui noi stiamo educando una classe di servi, questa è la verità, cosa che non era così. Diciamo negli anni 70, quando io facevo la prima parte della mia carriera, perché allora il merito contava ancora qualcosa. Se parliamo di meritocrazia, questo senz'altro, possiamo essere totalmente, preso questa... totalmente d'accordo. Massimo, adesso abbiamo il nostro appuntamento con la Chiesa, una Chiesa un po', diciamo, controcorrente. Il nostro Don Severino da Potenza, caro Don Severino, il tuo flash settimanale. Ciao Roberta. Caro, ciao. Un saluto agli spettatori. Dunque, in questi giorni, come sai, io lavoro spesso ancora sempre contro la violenza sulle donne, sia in chiesa e sia con i giovani. E sono rimasto veramente allibito da un richiamo che ho avuto da due miei colleghi sacerdoti, che mi hanno detto che come prete e come cristiano devo anche parlare del fatto che nella storia della Chiesa ci sono state delle donne sante le quali hanno subito la violenza in silenzio come dono di Dio per la santificazione. Allora ci meravigliamo perché c'è la violenza sulle donne? Grazie. Grazie. Mi stava facendo salire moltissimo la pressione. Nel senso, un po' di rabbia, meno male che c'è Don Severino, per quello che mi riguarda, perlomeno. Roberto da Brescia. Madonna Roberto, io non che telefono, voce non telefono mai. Mai? Sì. Però ho telefonato perché c'era la presenza di Fini. Ah. E sono d'accordo. Puoi chiamare anche altre volte Roberto qui a Non ci sono più mezze stagioni. Sì. Prego. No, Fini è mercenare, è vero, purtroppo è vero, perché chi fa giornalista come Fini in modo indipendente, come facevano altri, ce n'è ancora qualcuno. Viene spesso messo nell'angolo, questo è un danno per tutti, però vabbè, così va il mondo. Però volevo approfittare proprio della presenza di Fini per chiedere una cosa. Parlano di evasione fiscale, la Gabanelli vuole levare contante, eccetera, eccetera. No? L'evasione fiscale in Italia ci sarà sempre finché si limiteranno a dire queste stupidaggini. Cioè la Gabanelli aveva proposto di pagare, come anche il governo Monti, se non sbaglio, no? Voleva mettere un limite ai soldi liquidi e poi pagare col banco. Sì, tutte queste robe. Questo vorrebbe dire dare un potere immenso di nuovo alle banche, che sono comunque la causa di questa crisi. E l'evasione fiscale, secondo me, se la vogliono combattere, devono fare un'altra cosa. Cosa devono fare, Roberto? In sintesi. Pagare le tasse alle banche. Devono eliminare le fondazioni, devono fare in modo che la finanza, che paga il 22,5% sui guadagni, paghi il 60%, il lavoro paghi il 30%. E tra questi fanno finta, e qui ci si ricollega all'ascoltatore e all'ascoltatrice che parlavano di Popolo Bue, no? E questi dicono, ah no, i commercianti vanno, sì, per carità di Dio, probabilmente vanno anche un po' di tasse. Ma questi, beh, Roberto, fuori. Comunque guarda, sentiamo direttamente Massimo Fini che idea ha sulla questione dell'evasione fiscale e come combatterla, che è un male, diciamo, radicatissimo nel nostro paese, che se ci fa andare a scatafascio, diciamo, al suo bel peso purtroppo, e ancora non pare che sia si sia avvistato nessuno all'orizzonte che sia stato capace veramente di fare una battaglia. Sarà anche complessa, ma forse ci vuole anche la volontà ferrea. Che dici, Massimo Fini? Beh, certamente la soluzione non è quella della Gabanelli, che vuole farci vivere con 5 euro al giorno in contante, per cui poi tu vai in giro col tuo bambino e dici, mi dai un gelato? No, non posso, ho già superato il limite. Cioè, questo è proprio il classico moralismo di sinistra, non è con questo che combatti, che so, Dell'Utri, che ha portato 11 milioni di euro non so in quale repubblica. Adesso sfugge anche a me, in qualche stato offshore, insomma, è chiaro, un paradiso fiscale. Che invece di vessare il cittadino con queste limitazioni cretine, per cui io non posso neanche più sedermi al tavolo del poker, eccetera, però l'evasione fiscale, ripeto, nessuno finora, ma non credo a caso, la vera evasione fiscale l'ha combattuta, ma è chiaro perché, perché sono tutti ammanicati, cioè c'è una classe dirigente nel suo complesso ammanicata, se no l'evasione fiscale si combatte. Negli Stati Uniti questo succede, paese a me odioso, ma dico, questo si fa, quindi non è che ci vorrebbe una grande fantasia per abbattere l'evasione fiscale, poi bisognerebbe, come si può dire, poter scaricare, insomma, coinvolgere l'artigiano che ti fa il lavoro e costringerlo a denunciare e tu scaricare. E tu possa scaricare, come già stato detto. È molto qualche semplice volta. In realtà, anche a livello piccolo, ripeto, a livello grande è difficile. I grandi evasori, quelli che grandi insomma. Evasori, perché i grandi evasori, come i grandi delinquenti, i delinquenti naturali, cadono sempre in piedi, cioè se la cavano sempre. Definito l'ex premier Silvio Berlusconi, quelli hanno sempre il modo di difendersi. Adesso abbiamo un altro appuntamento, naturalmente come sempre, con la parola della settimana, che rivolgo a Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Diciamo, l'evasione fiscale è un vulnus del nostro paese, ma Bagnasco ha detto anche che i matrimoni gay sono un vulnus della famiglia. Vulnus, cara Valeria, come interpreti? La parola vulnus è ovviamente una parola latina di genere maschile che significava ferita. In realtà è un termine che si usa soprattutto nel linguaggio giuridico, e nel linguaggio giuridico significa lesione di un diritto, però è usato anche da chi ama servirsi di latinismi, e quindi anche al di fuori del linguaggio giuridico, col significato di offesa, lacerazione, e in particolare offese, lacerazioni alla morale, al costume. Naturalmente nel caso del cardinale Bagnasco l'uso è del tutto normale, visto la consuetudine all'uso della lingua latina nella Chiesa. Rimane in dubbio, sì. Naturalmente milioni di italiani colti, ascoltando dal cardinale la frase "è un vulnus grave alla famiglia" a proposito dei matrimoni gay, avranno capito di cosa si trattava. Ma tutti quelli che non hanno una conoscenza del latino e per i quali questa parola è sconosciuta si saranno chiesti: ma cosa è successo di così grave alla famiglia dopo che un matrimonio gay è stato celebrato? Ecco, rimane l'interrogativo effettivamente, cosa sarà mai successo? Grazie Valeria Della Valle. Grazie, arrivederci. Ciao Valeria. E in questi pochi secondi che ci rimangono, pochissimi, mi raccomando Massimo Fini, chiedo scusa a Fabrizio da Pescara e agli altri ascoltatori, ci sentiamo sabato prossimo. Dimmi, una ricerca di Amsterdam, dell'Università di Amsterdam, pubblicata sulla rivista Intelligence, dice che il quoziente intellettivo dell'uomo occidentale nell'ultimo secolo è crollato. Dimmi solo se è vero o no e poi ci dobbiamo salutare. Ma Eraclito nel VI secolo avanti Cristo diceva che l'umanità era destinata a degenerare progressivamente e continuamente. Mi pare che la storia gli abbia dato ragione. Grazie Massimo Fini, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.